Disco Della Settimana. Oggi sto bene, esco fuori a respirare, tanto è stupido restare e farsi male. Anche se l'unica cosa che ci fa ancora parlare è litigare. E poi quando fai l'amore non si sente più rumore, dura poco perché hai altro da fare. È tuo diritto stare zitto, fare il bravo, non fiatare. Non senti che è la fine del mondo, ma rimango a guardare. Non mi frega niente di starti a sentire. Non chiedo scusa, nessuna resa. Alzerò gli occhi senza difesa. Ti mostrerò i fianchi per farti colpire. Stringimi forte e lasciami andare. Oggi sto bene, perché infine stare bene è fare finta di essere grandi e camminare. Sorridere, pensare che sei l'unico a star male ed io sto male. Sguardi che trafiggono il tuo cuore come lame. Abbracciare il tuo nemico e farlo fare. E ti convinci che è normale, ogni giorno è sempre uguale. Non senti che è la fine del mondo, ma rimango a guardare. Non mi frega niente di starti a sentire. Non chiedo scusa, nessuna resa. Alzerò gli occhi senza difesa. Ti mostrerò i fianchi per farti colpire. Stringimi forte, non lasciami andare. Mi sa finisce male, vorrei dirlo ad alta voce e gridare sul finale. Chiuso a chiave, un animale che non cerca più di uscire, che si è scelto le catene per dirsi che andrà tutto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene. La fine del mondo, ma rimango a guardare. Non mi frega niente di starti a sentire. Oh, non chiedo scusa, nessuna resa. Alzerò gli occhi senza difesa. Ti mostrerò i bianchi per farti colpire. Stringi forte, non lasciami andare. Oh Mauro, finalmente un po' di rock in questo disco della settimana. Sì, qualche chitarra distorta, qualche batteria che picchia sul rullante, insomma. Era quello che ci voleva per chiudere questo ottobre 2020. Esatto, infatti vi presentiamo oggi un disco che è uscito il 23 ottobre, quindi pochissimi giorni fa, e che effettivamente è, rispetto a quello che stiamo ascoltando nell'ultimo periodo, un po' più rock, inteso come rock anche un po' classico, se vogliamo dire così. Quest'album si chiama Un volontario dal pubblico ed è il secondo album di questo artista, però il primo in lingua italiana. Un volontario dal pubblico è il primo album in italiano di Mastro, nome d'arte di Fabio Garzia, che è un artista e producer romano che ha collaborato tra l'altro nel tempo con molti artisti della musica italiana, da Elisa, Noemi, Marrakesh, Carl Brave, Wrong on You, insomma parecchi artisti. Tra l'altro pochi di loro invece fanno del rock, invece lui ha deciso di creare questo nuovo album dove appunto ha fatto una musica che lui definisce una musica di difficile... poco diffusa, diciamo, che però c'è. Ecco, a questo punto direi che vi facciamo ascoltare la seconda traccia che estraiamo da un volontario dal pubblico e poi torniamo a raccontarvi qualcosa. Faccia da sera, quella che ride, non ha paura. Mi perdo nel buio stasera, mentre ti cerco ma non sei mai sola. Se avessi qualcosa da perdere, del tempo per poterti credere, guardarti ballare fra loro e sorridere, saltare dal treno e poi sopravvivere. Ma non sei più tu che fai le regole, che palle ti nascondi dove puoi decidere. Dimmi cosa fai, come stai adesso, che hai corso tanto e ti sei persa tutto il resto. Na na na na na na na na. Il tempo non passa veloce e senti che va via la voce. Un nodo che stringe la gola, vorresti solo andare ora. Ridi pagliaccio, bevine ancora, bevi di più che col tempo migliora. Indossa la faccia da sera, quella che ride ma fa paura. Ma non sei più tu che fai le regole, che parli e ti nascondi dove puoi decidere. Dimmi cosa fai, come stai adesso, che hai corso tanto e ti sei persa tutto il resto. Come stai? Dimmi come fai? Come stai adesso? Dimmi chi è cattivo adesso, ma sono io quello diverso. Ma non l'ho mai capito, questo gioco perverso, non essere me stesso per sentirmi perso. Cambiare la faccia, colore, piacere alla gente che conta, e cantare canzoni dentro lo stesso locale, guardarsi allo specchio e vedersi invecchiare. Allora, parliamo un po' di chi è Mastrow, che in realtà è il nome d'arte di Fabio Garzia. Pensavo fosse Garcia quando me l'hai detto, però no, Garzia. Fabio nasce a Roma nell'82, quindi non è di primo pelo, mettiamola così, e inizia subito a manifestare già da piccolino una grandissima passione per la musica, questo anche grazie al papà che è musicista anche lui e che lo introduce, diciamo, alla musica, in particolare quella d'oltreoceano, facendogli ascoltare del rock anni 70, ma anche del blues. Quindi con la chitarra regalatagli a 14 anni dal padre e su un mangiacassette a due piste regalatagli invece dal nonno. Allora aspetta, per chi ci ascolta e ha meno di 30 anni, ecco, il mangiacassette era una cosa che tu premevi play e girava rec e una cassettina registrava con tutti i rumori di sottofondo anche. È un po' come parlare ai giovani del floppy disk, che qualcuno dice: ah, ma guarda, è l'icona del salva di Word in ingrandita. Ah, ok. Questo è un po' il pensiero. Comunque no, il mangia cassette, diciamo, è un strumento molto antico che serviva del secolo scorso a registrare anche e ascoltare ovviamente della musica. Allora lui col suo chitarrino regalato dal padre e questo mangia cassette prova ad incidere delle cose nella sua cameretta, però ecco, non era proprio uno studio di registrazione con il mixer cablato, le casse, le spie, no? Quindi diciamo che il risultato non era propriamente eccelso, però ha accumulato un po' di materiale, un po' di tentativi, insomma ci ha provato. E poi inizia a lavorare invece in campo musicale, lavora collaborando con tanti artisti italiani, tra cui diciamo Noemi, Elisa, Marrakesh, Rongo New. E dopo però, dopo aver lavorato, e tuttora lo fa insomma con questi artisti, ha deciso che ha bisogno di tornare alla sua musica e rintraprende qualche anno fa il suo percorso da solista. Esatto, e fa il primo album in inglese nel 2019 che si intitola Sugar Baby. Poi sempre nel 2019 inizia a cantare anche in italiano, che è un po' la sua lingua natia essendo lui romano, e il primo singolo si intitola Male Dire, in cui dire è tra parentesi, in cui si sente già questo sound rock da cui lui arriva, che ha un po' abbandonato per accompagnare questi altri artisti italiani, però poi lui torna al suo rock, che è quello che lui dice è la sua musica preferita, insomma è la sua musica. E quindi con il terzo singolo estratto dall'album Oggi Sto Bene, che viene pubblicato a un anno di distanza dalle prime uscite, e poi con Non è musica, che è un altro singolo che viene estratto da un volontario dal pubblico, si arriva all'uscita il 23 ottobre di questo secondo album, primo in lingua italiana. Ecco, a questo punto continuiamo a scoprirlo ascoltando un'altra traccia che estraiamo da questo album, e ascoltiamo proprio Non è musica. Non importa, non lo vedi, se faccio quello che vuoi, non è musica quella che sento. E tu che mi guardi dall'alto, lì su dove il piedi stallo, non è musica, non è musica, non è musica quella che senti. Raccontati una storia bella per dormire, avvolgiti nei sogni come solo tu sai fare. Ma cosa vuoi? Tu non lo sai, ma va bene così, io ti guardo da qui, bevo e rido dei tuoi guai. Guardati, non puoi fingere, mentre fai la con le calze corte alla corte del cuore. È un'arte parlare degli altri, voltarsi per non salutare. Non è musica, non è musica, non è musica quella che senti. Nascondersi è il gioco dei tanti, giocare è una cosa da grandi. I tuoi occhi si vedono al buio, so già dove sei. Forse la tua storia è bella da morire, ma il sogno che ti avvolge adesso inizia un po' a bruciare. Ma cosa vuoi? Tu non lo sai. Io ti guardo da qui, bevo e rido dei tuoi guai. Guardati, non puoi fingere, mentre fai la corte con le calze corte alla corte del cuore. io ti guardo da qui, bevo e rido dei tuoi guai. Adesso guardati, non puoi fingere, mentre fai la corte con le calze corte alla corte del cuore. Continuiamo allora a parlare di Un volontario dal pubblico. Dopo aver ascoltato Non è musica, un altro brano estratto da questo album, si capisce già un po' quali sono le musicalità che Fabio Mastro cerca un po' di farci scoprire, di farci ascoltare. Ci sono varie sfaccettature dentro quest'album, si passa tranquillamente dal rock un po' più alternativo come nel brano Ho paura di te, al folk di Caffè Latte e Sigarette che magari vi facciamo ascoltare un pochino tra poco, o il blues contaminato un po' con un po' di musica elettronica del brano che abbiamo appena ascoltato, appunto. E il risultato è questo sound internazionale comunque che resta appigliato alle radici del Made in Italy, no? E che dimostra un po' come anche oggi si possa fare un album rock, moderno e credibile anche in Italia. In questo album ci sono alcuni artisti che hanno partecipato alla creazione dei vari brani. Ad esempio c'è Mirko il Cane, che ha come ruolo il fischiettatore. E anche Giano, che è Cristiano Campana, produttore e bassista di Rancore, che invece suona il basso in alcuni brani. A questo punto vi facciamo ascoltare un altro brano estratto da Un volontario dal pubblico. Ascoltiamo Caffè, Latte e Sigarette e poi torniamo da voi. Ricordati le chiavi, questa volta non dimenticarle qui. Hai già fatto colazione con il latte caldo e il mio caffè. Abbiamo fatto tardi e non c'era un motivo. E tu lo sai com'è che fanno queste cose. All'alba ancora svegli a fumare sigarette dalle tre. Ma lo sai che non è vero. Domani vai al lavoro, ti dimentichi di me. Io lo so cosa è per te, che ti piace il mare, il sole caldo, e che non vorresti me. Oh, oh, oh. Spesso vorrei fosse un po' meno, ma poi tu dimentichi un cappello con la scusa per venirmi a prendere. E poi mi viene a dire non è vero, è stato un caso, e ti guardo scivolare sullo specchio mentre parli, io sorrido e tu ti arrabbi perché non puoi vincere. Ma lo sai che non è vero, che domani vai al lavoro e ti dimentichi di me. Io lo so cosa è per te, che ti piace il mare, il sole caldo, e che non vorresti me. Di me, ma sono qui da 5 anni e finisci come sempre il mio caffè. Vi abbiamo parlato poc'anzi di un altro brano, sempre tratto da quest'album, che si intitolava, l'abbiamo chiamato poco fa, Male dire con dire tra parentesi. E prima di farvelo ascoltare, allora vi raccontiamo un po' cosa dice questo brano. un brano di critica nei confronti dell'ipocrisia di ognuno di noi. È un'ammissione di colpa per le proprie responsabilità, per quello che succede nelle nostre società, ma è anche un rifiuto della realtà, un rifugio per chi non vuole sentire ragioni. È la consapevolezza di essere parte di una comunità che non vuole problemi, non vuole sentirsi fare la morale, vuole vivere con leggerezza e non pensare a quello che succede al vicino. La società in questo modo cambia senza che nessuno se ne accorga. Allora, con questa premessa vi facciamo ascoltare la traccia numero 3 di Un volontario dal pubblico, che si intitola Maledire. Sono stanco di starvi a sentire, di avere la vostra benedizione. Stasera non voglio pensare e scappo così per non farmi scoprire. Un fantasma che tira a coperte, mi perseguite i sogni di notte. Vorrei solo pensare a me stesso e smetter di chiedere permesso. Non credo più a niente, c'è poco da dire. Folle di pecore contro i giornali che acclamano il lupo alla televisione. Applausi scrosciante di un mondo che muore. Tutti sul ponte a gridare, il nemico che viene dal mare. Ma basta guardarsi allo specchio, così sai dove devi cercare. È così che vado giù e mi lascio andare, cancellando facilmente ogni morale. Sentirmi libero e poter esagerare tra quella gente che vorrei un po' maledire. Il dolore svanisce così. Schiavo volontario di una condizione. Mi piace tanto da star male, ma io non mi posso fermare. Non perdo il sonno, faccio un bel post e cambio la storia così da un bistro. Mentre tu affoghi lontano da me, io affogo i pensieri nel Gran Marnier. Sembrava lontano davvero e non l'abbiamo visto arrivare. I muri non crescono soli e noi pensavamo a cantare. È così che vado giù e mi lascio andare, cancellando facilmente ogni morale. Sentirmi libero e poter esagerare tra quella gente che vorrei un po' maledire. Oh, oh, così che vado giù e mi lascio andare, cancellando facilmente ogni morale. Sentirmi libero e poter esagerare tra quella gente che vorrei un po' maledire. Tra quella gente che vorrei un po' svanisce così. Schiavo volontario di una condizione. Mi piace tanto da star male, ma fermarmi è un privilegio che non voglio guadagnare. A questo punto, per concludere il racconto di Un volontario dal pubblico, che è l'album che vi presentiamo oggi, l'ultimo album di Mastrow, uscito il 23 ottobre, vi raccontiamo cosa dice l'artista dell'album. Infatti è un disco questo che, come ci spiega lo stesso Mastrow, è qualcosa che non è stato studiato a tavolino. E infatti ci dice: parlare di un disco come fosse un concept o qualcosa di programmato per me è difficile. Ogni canzone nasce da sola, non ha un percorso definito. Quello di cui parlo nei